chi è? Io, il boia. Vabbè, un sciapufu. Allora, José. Vabbè, cosa cazzo stai combinando? Pulendo stavo la cucina, in camera. Ho passato la varicina in terra per poter pulire. Sai che due giorni non è uscito fuori a fare la pipì. Perché dice che faceva freddo il pisello. Ah, ecco. Allora ti sei messo a pulire. Io ho pulito tutto, camera mia, salone, cucina, bagno, tutto. Con la varicina che ho comprato l'altro giorno, la scandeggina perché è varicina. Allora, è fatto bene. Vabbè. Il resto, niente. Ah, non ho capito, cosa hai detto? Niente. Sei basso. Un basso? Perché sto usando il latino. Ah, per quello. Ti sento leggermente meglio adesso. Beh, che gradi ci sono a casa tua? Saranno penso 5, 6, forse 10. E Simona? È dentro che c'ha freddo, ricata nel talletto che c'ha poi di freddo a letto. Ha freddo già? Sì, sono uscito di stamattina e basta. Ho comprato sigarette e poi sono entrato qua. Ah, ho capito. E tu in giro sei andato stamattina? Al circolo. Ah, hai fatto passeggio un pochettino, stare in casa è un casino, meglio uscire. No, ti fai una passeggiata, perdi un'ora e mezzo di tempo, almeno quello. Passa l'ora più che altro. No, sono andato a pagare delle bollette, prima in banca e poi al tabacchino. Ehi, cazzo. A pagare, mamma mia, non è fammi darmi. Poi E adesso mi arrivo a fare. Ah, io già ho pagato tutto, meno male. Non faccio più da pagare. Tutto, gas, luce, ho creato tutto, meno male. Almeno sei contento. Ah, beh, quello sì. Guarda che mi è arrivato un messaggio dal comune. Per fare la domanda per la agevolazione dell'acqua, mi ha detto lo faccio vedere, così te lo fai. Agevolazione, ecco, e dove ci va? Via Varne? Non lo so, ti faccio vedere il messaggio quando ci vediamo. È arrivato ieri, mi è arrivato. Come mai a me non è arrivato? Dove sono? Non lo so, ogni tanto mi arriva qualcosa di strano. L'altra volta mi è arrivata la luce. C'era scritto come mai non l'avevo pagato, se potevo darmi la mano, c'è che scrive se vuoi darmi la mano a pagarmi la bolletta. Non gli ho detto, ma a che gioco stiamo giocando? Forse non se me la volete pagare voi, forse vi dico grazie. Appunto per quello, è strano. Mai mi è arrivato qualcosa del genere, dal messaggio al comune per fare, come si chiama, per l'acqua. Non ho capito, è una cosa strana, però dopo te lo... Comunque c'è la domanda per fare il contributo in pratica, per pagare di meno di acqua. Ho capito. Bisogna vederci, andare a vedere, vabbè, questa questione dell'acqua, a vedere se possiamo fare l'acqua, pagare di meno di acqua. Quello infatti che... Adesso bacio, abbiamo una ciappola, l'ho letto ieri. Mi è arrivato il codice per il Facebook, per Giampiero. Poi... Questo è come... Non mi ricordo, l'ho letto, cazzo, mi ricordo se l'ho letto qui, forse nell'altro telefono l'ho letto. Ioi. Ogni tanto mi arriva qualcosa strana. Se non ti arriva qualcosa dei soldi. Te immagini, cazzo. Mi arriva, come si chiama, il messaggio, vado a ritirare i soldi all'Unicredit che gli sono arrivati 20.000 euro per sbaglio, il regalo. Magari. Magari? magari veramente a tre. Ma sei andato per il... quando è che doveva ritirarsi il PIN? Eh? Quando è che doveva arrivare? Aspetta. Vediamo, risparmio, fino a 40, 100 circuiti, vabbè, non ce la frega un cazzo. Questo. Poste opere. Eccolo, se qua l'ho visto per l'altro tempo. Azienda SMS, servizio cliente, non è questo. WhatsApp, non mi ricordo che cazzo l'ho visto. C'è questo telefonino oppure nell'altro. Quando è che ti deve arrivare il PIN, Antonio? Dovrebbe arrivarmi, l'ho ritirato martedì, mi ha detto una settimana, quindi martedì prossimo. Va bene, già va bene. Speriamo bene, almeno. Dunque tranquillo. Poi vado a Leo, come si chiama? Poi già mi informo su quella cosa che ti ha detto Gavino. Te lo faccio sapere direttamente da quella signora. Mi vede un po'. Se è vero che fanno quella cosa lì, ti faccio fare immediatamente la domanda. Adesso non so se posso farla anch'io, boh. Se me la fanno fare, me la faccio, dico. Perché stammi in casa così buttato, ho detto, preferisco uscire, non devo impazzire. Almeno qualcosa faccio. Quello che c'è l'epoca è che va a tagliare nelle scuole, è tutto pieno, è alta l'erba. Con i spugliatori lì c'è un mese, più di 2 mesi di lavoro ci sono. Beh, cosa vuoi? Magari ancora. E lì in due lavori benissimo. Uno raccoglie, l'altro usa il spugliatore, oppure il contrario, c'è un mese di lavoro. Lì vicino al comune, quello che c'è qui a Caponazzini, dove c'è quel circo, ci sono le scuole lì. È tutto pieno d'erba, Da tagliare, lì con il spugliatore ti fai lì là, lì vai. E va a fare la domanda, gli stavo facendo subito, non ho capito. A me no, andiamo assieme a lavorare e così passiamo 3 ore tranquilli, fuori di casa, ci ritriamo. Io grido, mi sembra vero a me, almeno uso il cespugliatore, quello del comune, gli avevo detto come ti è fatto. C'è da cambiare la cinghietta ogni 4 o 20 minuti, ma se la prende in Napoli. L'importante è tagliarla, piano piano. Ehi, vabbè, non ce n'è problema. E chi ce ne mette fretta? Fretta non ci avevo messo la volta che sono entrato lì. Io ci dovete fare questo, veniva la mattina alle 9 e poi alla 1 veniva 5 minuti e se ne andava. E quei 4 guasti drogati che c'erano, facevano buongiorno, come state, tutto bene? Sì. Vengo subito che stanno andando a comprare le birre, tu visto vai? Andava direttamente a ritirarsi i soldi in banca e basta. Vabbè. Se mi capitano di quelli non le voglio per niente, glielo dico direttamente, mi metto in mezzo ai drogati perché non le voglio manco uno, lo dico. Avete già avuto esperienza, vengono, danno la benedizione e se ne vanno, quindi... Mi dia la persona come si deve per fare questo lavoro qui e siamo a posto, dico. A me i drogati non li voglio, i drogati ce li porti lì al riciclo e li faccio lavorare lì, già stanno bene. Speriamo Antonio, speriamo che si accettino in queste domande, che passano queste domande per almeno 3 mesi, cazzo me ne voglio. Sì, 3 mesi o 6 mesi, quelli che sono già sono buoni. Meglio di niente, insomma, a me non mi diverto. Quando piove non lavori, lavori in domani, recuperi, capito? Non è quello il problema. Basta che tu arrivi a quest'altro di ore, non te ne fotte nulla. Io andavo tutti i giorni, perché a un certo punto a fare così, questi salti, era un casino. Allora gli ho detto, guarda, lo fisco viene tutti i giorni, ma la superiore, cosa me ne frega, gli ho detto. Il patato ha detto che si è occupato, poi ha detto, se il superiore vuol dire che sto lavorando gratis. E l'importanza che ci mettano su all'alberghiero, cazzo, magari mandarci lì. Sì, è perché qui all'ippodromo lo stai bene. Se ti mandano all'ippodromo a pulire, non fai un cazzo. Raccogliere, metti un po' di terra, poi innaffi le piante, quello che ci sono le piante intorno a quelle siepi, raccogliere la carta da terra e passi l'ora così sera alle 11. E così, e quei tipi che c'erano prima di noi, che andava con la cassa della birra in giro, si caricavano la cassa della birra dal bar e se la portavano dentro la legnaia, capito? Ogni tanto andavano a fare il cicchetto. Io ho capito, magari Antonetto, io e la scusi a fare quella cosa là, va bene anche lì, poi avremo un po' di tempo, hai capito? Tutto succede, stavano bene quindi, non c'è che stavano male, prendevano già i soldi di dove lavoravano prima, più i 300 euro, capito, facevano dalle 8 alla 1, non facevano niente in pratica, perché tu li vedevi, passavano qualcosa, col trattorino, caricavano la birra, ogni tanto scendevano giù, uno a turno, no, a bere della legnaia, non è che siano, non so che abbiano detto esci che vi invito una birra anche a voi, nulla, di nascosto andavano. Vediamo, per un posto di lavoro, vediamo un po' cosa mi dice. Speriamo bene che ti prendano anche il nero, se la pia è Napoli, l'importante è che ti paghino. Cazzo, tra volte paghiano gratis. E potrete entrare, poi il resto viene da sé piano piano. Vabbè, allora ci sentiamo dopo, se devi fare roba, non c'è problema, già sono qua all'ascolto, là. Ciao. Via, ciao. Nessuno qua, tutti morti siete. Tu che la testa? Dottor Marino, ci sei? Attenzione, Bacchisio, cambio. Allo? Attenzione, c'è nessuno? Attenzione, io ti sto chiamando, se mi senti chiamo nei 27, chiama 27 se mi senti in PMR. Chi va là, avanti, attenzione Marino, mi senti? Mi senti? Marino, io sto parlando, mi senti? Niente. Vedi un po', 1, 2, 3, via. Capo, attaccato lo studio. E allora la posizione che ho non serve a un cavolo, perché l'ho spostata sotto l'antenna grande e non serve la posizione. Bacchi, che bussa? Togli il bico. Aspetta, non ho sentito, riparla un po'. Non lo senti a Marino, Bacchi? Non lo sento, tu lo senti? Qua arriva sempre forte e chiaro, anche dove io sono in sala, l'ho portato in linea. forte e chiaro arrivo. Aspetta, a togliere il bip. Ehi, ehi, Marino. E Luca è Marino. Luca sta parlando. Senti, Marino, Luca. Sì, sto facendo cosa, Bacchi? Togli il bip, ti ho detto. Ehi, dai, già ti senti, Marino. Dilli di guardarsi il telefono, che gli ho mandato un messaggio a Marino. Cos'è un messaggio che gli hai mandato? Ehi, a Marino, dilli di guardarsi il telefono. Marino! Ehi, forte e chiaro io sempre. Ti ho detto di guardare il telefono, che ti ho mandato un messaggio. Ehi, benissimo, Marino, sempre. Sono in sala col gommino sempre. Va bene, Marino, ti devo salutare, sto facendo roba. Ci sentiamo magari dopo. Ciao, ciao. Ma chi è? Marino. Attenzione, Marino. E tu? Attento, Marino. Chiamo Bacchiglio, chiamo Bacchiglio, cambio. Marino. Attenzione, Marino. Marino, mi ascolti? Giovanni. Ora, Ti sento, però c'è basso come radio. Il segnale è buono, ma la radio è bassa. Capito, ma... La radio è bassa. Adesso si è adatto più bene. Perché mi sono avvicinato da lontano. Ma tu ti devi mettere... Legati un pezzo di spago, cazzo, te lo lasci vicino alla bocca. Almeno ti sentiamo, Bacchi. Marino non ti sente. Marino non lo so, Luca lo sente. Luca lo sente a Marino. Luca, lei sarà mangiando pasta al forno, grazie da Luca. Ha mangiato pecore, siamo andati dal piano. Ah, così è. Ma Graziano, ancora in tornie. Non si è sentito stasera, nulla. Vediamo Marino se adesso arriva. Marino, lo senta Bacchiglio. Ogni tanto il parimolo. Ehi, 27 almeno ci sentiamo, ma qua chi ti sente, chi non ti sente, capisci? Sei un macello, eh. Ah, io il 27, io. Ehi, allora. Signor Bacchiglio. Avanti, dove? Ellu. Buonasera, noi siamo il 27. Ma mi stai ascoltando un po'? Aspetta, che sollevo appena. Avanti. Vedi un po', 1, 2, 3. Esce Marino e voleva controllare Marino. Chi chiama Marino? Oh, signor Marino. Ma sicuro sei chi ve? Ehi, che c'è? Se vuole che ci sia, ci chiamo io. Sì, caspita, sotto a zedo di sei buscio. Ecco, arrivo, forza arrivo, va bene? Sì, si accosta uno, accosta all'altro. Ascolti bene, sì. Sì, ehi, a voglia. Perché? Sollevato di più, ti sì. Ma chi stai parlando? Con noi o con Bacchiglio? No, sto parlando con te, ho abbassato quello là. Ah, no, sto provando la tua sorella, sto provando qua il grassino. E questa è bassa. No, Bacchiglio non l'ascolto. A domani l'ascolto passando bene. Dunque, ho detto, devi fare un altro controllo, capito? Comunque va bene, dai. Sì, secondo la posizione, compreso. Secondo la posizione, lo ascolti. Secondo la posizione non ce la fa ascoltarti. Poi gli ho messo a tuo piano dove c'è Gattida, il terapino lì. Ho messo in un posto che si fosse in studio. Ho messo un coso, un mossetto. Poi ho mandato anche la foto sulla sala. Lei la terra terra, c'è buio, là. E metto il disco con la bassa. Poi lui si è messo sul tetto e dopo che fa un pochino, là. Ma quelle antenne, ma l'antenna che hai comprato, L'antenna che ha fatto Bacchisio. Ah, l'antenna che ha fatto Bacchisio, mi ce l'ho anch'io qua, ce l'ho. E la tua gemella, no, il tuo è la tua sorella. Tua sorella è sentiva, no? Stavo lavate la barcata di quella, il coltono. Ah, Bacchisio non ascolta, tua Maria l'ascolta, benissimo, a te idem, a Luca idem lo stesso, la pensa bene. Va benissimo, vai, sei buono come coso. Ah, tu sei in una zona buona, ma Bacchisio deve essere in una zona che a te deve essere chiuso un po'. Esatto, io ascolto tutto, Bacchisio proprio è diritto. È come l'antenna che ha fatto Luca. L'antenna di Luca io l'ho piazzata e stavo sempre modulando con l'antenna che mi ha fatto Luca. Invece a Bacchisio è negativo, è andata male, proprio il tempo con zero, la fanno via la data. Ma deve essere che sta usando quella che c'è in basso, hai capito? Ok, dai, adesso andiamo dentro, guarda, ti penso per il controllo se mi ascoltate, dai, comunque devo come segnare il foto, va bene, dai. Sì, vieni 27. Ok, dai.